This is Van Elkwood Colossi. Mi mamma è rimasta poi Colossi. Io ante di te ti metti. Oh, oh, oh, oh. Niliuza visheti, nikapanga gazeti, kukupata wa dhati. Oh, nilivichanga visenti, kukutunza wa dhati, kama vyombo na kabati. Ani, mwambie mama Juma si apeni maneno. Mwambie mama Ani ni nalikitenda. Shira, nisovuka minai, tuacheni wenyewe. Juani swa iba wangu ni yeye wake ni mi ya nini maneno mabema mama Juma si ataki maneno mabema mama Ali zangu vitendo no bete Me alone. Go baby, go baby, go baby.